nel romanzo 8 cavalli neri per l'87° distretto, scritto nel 1985, Ed McBain fa rivelare al personaggio del sordo, è un cattivo ricorrente che ama sottoporre la polizia sotto forma di rebus i suoi insani propositi, no? Fa rivelare tutta la sua ammirazione per un regista cinematografico come Alfred Hitchcock, ma gli fa dire che i film di Hitchcock li apprezza tutti, tranne uno, Gli uccelli. Una sciocca esercitazione nel campo della fantascienza, dice così. Anche in Nocturne, che McBain scrisse nel 97, ad uno dei suoi personaggi attribuisce un dubbio relativo agli uccelli. Gli fa dire che non pensa che sia stato Hitchcock a scriverne il testo. E anche in Ultima speranza, scritto l'anno successivo, nel 98, McBain fa domandare ad un suo personaggio «Mai avuto una Melanie qui dentro?» Mentre ad un altro gli fa rispondere «Era così che si chiamava la ragazza negli uccelli, quel film scritto da Alfred Hitchcock». Al che, rientrando in virtù del suo straordinario potere di scrittore nella testa del suo primo personaggio, quello che aveva fatto la domanda, McBain vi coglie il tarlo di un dubbio o qualcosa di più, perché questo non riteneva affatto che fosse stato Hitchcock a scrivere quel film. È presumibile che nell'enorme sua produzione letteraria McBain abbia alluso ancora alla questione, ma questi tre casi mi sembrano più che sufficienti, sia per non poter considerare la cosa del tutto casuale, sia per azzardarne una spiegazione. Indubbiamente Alfred Hitchcock diresse Gli uccelli. Lo realizzò nel 63, ricavandolo come un altro suo film, come Rebecca, la prima moglie, che era un film del 40, ricavandolo da un racconto della scrittrice inglese Daphne du Maurier. Ma la sceneggiatura degli uccelli fu opera di Evan Hunter, di cui per l'appunto Ed McBain è lo pseudonimo. Allora, le citazioni di Ed McBain sono autocitazioni e il loro senso è chiaro. Ci tiene a farsi ricordare per un'opera da cui, a causa della fama del regista, si sente ingiustamente espropriato. O di più, chiede ripetutamente un risarcimento, quello che toccherebbe ad uno scrittore confinato, diciamo così, tra i minori nel momento in cui lo si ritrovasse autore di un'opera di livello superiore. Insomma, facendosi battere la lingua sul dente che duole, si presenta da quel dentista benigno che saremmo tutti noi suoi lettori, affinché gli si tolga il dolore. Stranamente, ma neppure tanto, perché un'idea fa la svelta a replicarsi, anche Hitchcock fa qualcosa di simile a ciò che fa McBain. Nei suoi film, infatti, Hitchcock è presente anche come attore, o meglio, in veste di semplice comparsa. Una volta è un signore seminascosto da una cabina telefonica, una volta è un altro che passa sul marciapiede, un'altra volta ancora è uno che esce da un negozio con due cani al guinzaglio. Appone la sua firma all'opera. Sulle prime, pertanto, il gesto parrebbe privo di significati rivendicatori. Tuttavia, a pensarci bene, questa esigenza di firmare e di firmare più vistosamente la propria opera non è poi molto diversa da quella che ha mosso McBain. Il regista è un autore del tutto particolare. è il terminale del lavoro di tante persone, di scrittori, sceneggiatori, fotografi, musicisti, tecnici del suono, esperti vari e ovviamente attori. Il regista è catalizzatore, coordinatore, sintetizzatore, un deus ex machina, insomma, che ha bisogno del lavoro altrui. E spesso, nel cinema come nel teatro, però questo suo ruolo, per una ragione o per l'altra, rischia di venire sminuito o addirittura ignorato. Può essere, che so, a causa della notorietà o della bravura dell'attore, può essere a causa dell'importanza del testo che sta mettendo in scena, può essere a causa della particolare concezione della forma d'arte in questione diffusa nel pubblico. Ecco allora che urge in qualcuno la necessità di saltar fuori dal collettivo per guadagnarsi la sua pubblica individualità. Una citazione, fosse anche un'autocitazione, allora una forma di risarcimento. Oh,